Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Qualche pizzico in meno, tanta salute in più. A Obiettivo Salute parliamo di sale, o più precisamente di sodio contenuto nel sale che usiamo a tavola in molti alimenti che fanno parte della nostra dieta. Ebbene, come raccomanda l'OMS, tenersi al di sotto dei 5 grammi giornalieri. I ricercatori dell'Istituto Karolinska di Stoccolma hanno infatti scoperto che chi consuma tanto sodio ha un rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2 superiore al 70% rispetto a chi ne consuma poco. A Obiettivo Salute il professor Giorgio Sesti, diabetologo e presidente della Società Italiana di Diabetologia. Un eccesso di consumo di sodio è una delle cause di ipertensione arteriosa, e l'ipertensione arteriosa è spesso associata al diabete. Per questo motivo il sodio, oltre a essere un importante fattore nutrizionale da tenere sott'occhio e da ridurre proprio per evitare l'incremento dell'ipertensione, è anche importante nella dieta del diabetico tenerlo sotto controllo e non abusarne, proprio per evitare sia il danno di origine vascolare, sia il rischio di sviluppare diabete in chi non lo ha, sia il rischio di non controllare adeguatamente la pressione nel caso si prendono anche le compresse degli antipertensivi, che richiedono necessariamente poi un incremento del numero di farmaci antipertensivi che il diabetico assume. FAS, acronimo di sostanze perfluoroalchiliche, sono una famiglia di sostanze utilizzate dall'industria per rendere i prodotti impermeabili all'acqua e ai grassi. Ma quanto sono dannose queste sostanze per la nostra salute? A Obiettivo Salute il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto Superiore di Sanità. Sono delle sostanze che purtroppo in rare circostanze, i casi precedenti sono negli Stati Uniti, in Germania e appunto in Italia, nel Veneto, sono state sversate, non si sa se accidentalmente o illecitamente, nelle acque e quindi bevute da una certa quantità di popolazione, ha esposto questa popolazione a dei limiti ovviamente abnormi. I PFAS non sono sostanze particolarmente studiate, o meglio sono state studiate negli animali, negli uomini non tanto in maniera approfondita, ed è per questo che proprio l'Italia, proprio noi, abbiamo sollecitato il Ministero della Salute, in particolar modo sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità che la Commissione Europea, in particolar modo l'EFSA, l'agenzia che si occupa proprio di questo, ad approfondire il fenomeno, e proprio insieme a loro probabilmente entro dicembre dovremo rilasciare delle considerazioni un po' più approfondite che guidino il comportamento in tutti i paesi europei, perché questa è chiaramente una sfida nuova che deve riguardare tutti i paesi europei. Per quanto riguarda la loro tossicità, premesso che queste sostanze non ci devono essere, perché sono sostanze, ripeto, artificiali, per coloro che sono stati esposti noi dobbiamo monitorarli, cioè dobbiamo controllarne, diciamo, la percentuale di queste sostanze all'interno del sangue e ovviamente intervenire prontamente nel caso che si presentino degli squilibri. A tutt'oggi queste sostanze non presentano una cancerogenicità nell'uomo. Ci sono delle ipotesi, ma molto remote, non ancora provate negli Stati Uniti, di tumori del testicolo, ma invece i problemi che noi temiamo sono più a carico, diciamo, del sistema epatico e in generale del sistema endocrino. Però non bisogna drammatizzare, perché sostanzialmente, ripeto, gli studi non hanno indotto grandi problematicità. La cosa importante che l'Italia, in particolar modo la Regione Veneto, sta facendo è monitorare la salute di questi cittadini e intervenire prontamente per evitare qualsiasi conseguenza più grave. Per buttare giù la pancia, meglio Fedez degli addominali, vi spiego come e perché in diretta Facebook con il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo. E per oggi è tutto, vi saluto, la programmazione di Radio 24 continua come sempre con Melog, io invece vi aspetto in diretta Facebook e Obiettivo Salute torna domani, sempre alle 12, quando scocca l'ora della salute. Buon lunedì da Nicoletta!